Permettetemi una postilla a un argomento che ho già affrontato domenica scorsa. Ieri i quotidiani, stranamente, ci hanno informato che Sofri Bompressi e Pietro Stefani, detenuti come si sa nel carcere di Pisa, non faranno lo sciopero della fame a oltranza in segno di estrema protesta contro la loro situazione giudiziaria. È una notizia negativa, una non notizia, che in quanto tale non avrebbe dovuto avere diritto di cittadinanza sui mezzi di informazione, che invece è stata ripresa con vario rilievo praticamente da tutti. È una cosa, ammetterete, abbastanza curiosa, anche se giustificata formalmente con la necessità di smentire quanto pubblicato in senso contrario il giorno prima dal Foglio di Giuliano Ferrara. In genere l'onere di rettificare una notizia imprecisa ricade su chi l'ha divulgata, non si estende all'intero sistema informativo nazionale. Invece, sulla pronta smentita degli interessati, si sono costruiti dei servizi a pagina intera. Ora, io non so se il Foglio si è limitato, come scrivono giustamente preoccupati i pochi commentatori che hanno davvero a cuore la sorte dei tre prigionieri, se il Foglio si è limitato a rompere un impegno di riservatezza, cioè a rendere pubbliche delle informazioni che pubbliche non dovevano essere, o se è caduto in un infortunio giornalistico vero e proprio. Ma certo, questo dello sciopero della fame dei tre detenuti è una notizia che circola da parecchio, tanto che ormai ha assunto paradossalmente il carattere di notizia positiva. I tre non hanno mai dichiarato l'intenzione di digiunare a oltranza, anzi l'hanno esclusa parecchie volte. Lo sciopero della fame ovviamente è tale solo se è dichiarato, ma l'ipotesi che la loro vicenda subisca questa drammatica svolta ormai è annoverata a pieno titolo tra quelle da prendere in considerazione. Per dirla brutalmente, è un'ipotesi che giornalisticamente piace. E si capisce anche perché. Il caso Sofri, come lo si chiama, ha scosso l'opinione pubblica come esempio clamoroso di giustizia negata, ma giornalisticamente è giunta a un impasse. In attesa che maturino i tempi tecnicamente piuttosto lunghi del ricorso in Cassazione, perché se ne parli deve succedere qualcosa. Qualcosa che possibilmente permetta di separare il problema della sorte dei tre condannati da quello della condanna che li ha colpiti e del perché la magistratura con tanta sconcertante fermezza e a scapito talvolta della propria dignità l'ha voluta. Ma i giornalisti italiani, come si sa, polemizzano con la magistratura solo se hanno motivi personali per farlo, se il loro padrone rischia di essere incriminato per una grossa inchiesta, in pratica. Di giustizia negata non si preoccupano più che tanto. Lo sciopero della fame, invece, un bello sciopero della fame, possibilmente oltranza, sarebbe tutt'altra cosa. Permetterebbe di occuparsi solo del destino personale dei tre detenuti, non sotto il profilo delle critiche alla condanna che li ha resi tali, ma sotto quello dell'opportunità, della non opportunità, della convenienza, della non convenienza di quella forma di protesta. Permetterebbe di sfoderare tutto l'armamentario delle suppliche, delle esortazioni, dei ricatti moravi, dei sensazionalismi sentimentali così cari ai nostri dibattiti pubblici. E se poi Dio non voglia, se quella protesta fosse portata, come pudicamente si dice, alle conseguenze estreme, l'ondata di ipocrita commozione che si riverserebbe sul paese, dalle più alte delle cariche dello Stato in giù, magistrati compresi, risolverebbe il problema una volta per tutte, permetterebbe di esaltare la coerenza morale dei condannati senza smentire la volontà di condanna che si è dispiegata nei loro riguardi, sarebbe in tutto e per tutto la soluzione ideale. Ecco perché quella non notizia circola con tanta ostinazione. Per qualcuno, certo, è motivo di preoccupazione angosciata, ma per altri rappresenta un'oscura e inconfessata speranza. E sono quegli altri quelli che hanno il potere di far circolare le notizie. Stiamoci attenti, per favore.